Ta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Naturalmente potete trovarci anche sul web tramite l'app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it e che vi permetterà di ascoltarci in tutto il mondo. Mercoledì 10.30 all'incirca, parte come ogni mercoledì, ancora per qualche mercoledì, poi ci sarà un po' di ferie e parte, dicevo, Città Fujiko Live Club, una trasmissione di due ore all'incirca che si propone di farvi ascoltare musica ufficiale registrata dal vivo di ogni epoca e più o meno di ogni genere. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità e anche oggi non è da meno. Infatti se qualche settimana fa proponendovi il nuovo album live di Neil Young con i Crazy Horse che si chiama Fucking Up, avevo detto che stavo per entrare in crisi d'astinenza per album live di Neil Young, altrettanto posso dire per Joe Bonamassa, grande chitarrista che ha fatto un sacco di album live, però era un po', quasi un annetto, diciamo, no, due a dire il vero, che non pubblicava album dal vivo e ha raccolto il mio appello e ha subito pubblicato qualche settimana fa un nuovo album che si chiama Live at the Hollywood Bowl with Orchestra. Come dicevo, Joe Bonamassa è un grande chitarrista che arriva dallo stato di New York e ha iniziato la sua carriera giovanissimo. Infatti a 12 anni aprì alcuni concerti di B.B. King, scusate se è poco. Il suo primo album è stato nel 2000 e da lì è stato tutto un susseguirsi di album, molti in studio ma altrettanti, forse qualcosina di più dal vivo. Fra parentesi, lui è uno staccanovista della chitarra, oltre a innumerevoli collaborazioni fa parte di due band, una si chiama Black Country Communion ed è una band abbastanza pesante sul hard rock, diciamo, e l'altra invece si chiama Rock Candy Funk Party, che come dice il nome invece è più sul funky. Queste sono band formate da musicisti che militano tutti in altre bands e che si trovano ogni tanto. La sua carriera però riguarda proprio lui, himself, Joe Bonamassa. E fra l'altro, non stanco di tutto ciò, ha anche creato una casa discografica che si chiama Keeping the Blues Alive Records nel 2002, che ha pubblicato oramai diversi album sia suoi che non suoi. Live at the Hollywood Bowl with Orchestra è stato registrato a Los Angeles il 9 agosto dello scorso anno, quindi fra un mese sarà più o meno Recorded Today. È un combo, vale a dire CD più DVD, che però racchiudono lo stesso programma sia appunto in audio che in video. Il brano che ci andiamo ad ascoltare subito, perché è molto lungo quindi c'è già scarsità di tempo in questa prima parte, il brano, dicevo, si chiama Curtain Call, lui invece si chiama Joe Bonamassa. We'll be right back. so don't be late for the curtain call. Cause I've never been the type to seize a moment out too late while breaking down the bricks in the world. Si chiama Carter and Cole, questo lungo brano che a mio avviso è il miglior esempio di interazione fra Joe Bonamassa, la sua band e l'orchestra. In altre occasioni in questo album le cose sono un po' diverse: da una parte c'è l'orchestra, dall'altra c'è la band, che difficilmente si integrano. Comunque sicuramente un ottimo album questo Live the Hollywood Bowl with Orchestra. Orchestra che non è un'orchestra fissa, ma è stata assemblata appositamente per questa occasione, che lo ripeto è stata il 9 agosto dello scorso anno, e che ci dà l'occasione per andare ad ascoltare altre registrazioni effettuate con l'orchestra. Ad iniziare da Brandi Carlile, che chiama in azione invece una orchestra ben strutturata, infatti la Seattle Symphony Orchestra. Lei viene da Ravensdale, che è un sobborgo di Seattle, e da tantissimi anni anche lei sulle scene, ed è un personaggio che non è molto conosciuto, credo, alle nostre latitudini, ma che invece meriterebbe più fortuna. Live at Benaroya Hall with the Seattle Symphony si chiama questo album, che è stato registrato nell'omonimo locale di Seattle il 19, 20 e 21 novembre del 2010. Il brano che ho scelto per voi si chiama The Story, lei invece si chiama Brandi Carlile. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories where I've been, and I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam across. I really am, and have you found it? Walking down the avenue, see what it brings. Could be good things in the air for you. Pochi si ricordano che in quel capolavoro della musica moderna che risponde al nome di Harvest by Neil Young, naturalmente album del 1972, ebbene in quell'album prevalentemente registrato in studio ci sono due brani dal vivo. Uno è quello che ci siamo ascoltati, che si chiama There is a World, ed è registrato il 1 marzo del 1971 alla Barking Town Hall di Londra, e insieme niente po' di meno che la London Symphony Orchestra. Crusty plate has not been on a stair. She has washed and brushed your face. I grandi Procol Harum sono stati fra i primi a pubblicare un album interamente registrato dal vivo insieme ad un'orchestra. Nello specifico il titolo dice tutto, si chiama The Concert with the Edmonton Symphony Orchestra and the Camera Singers. Dice quello che manca di dire è che Edmonton è una città dell'Alberta in Canada, dove questo album è stato registrato il 18 novembre del 1971. Conquistador, il brano che apre la seconda facciata, anzi la prima, scusate, facciata dell'album, la seconda è occupata integralmente da una lunghissima suite. Rob the tower and steal the album. Una band che secondo me avrebbe meritato più fortuna anche dalle nostre parti rispetto a quello che ha avuto. Si chiamano tuttora Renaissance, furono formati nel 1969 da due ex Yardbirds, Keith Ralph il cantante e Jim McCarty il batterista, però la musica che fecero con questa band era completamente diversa da quella fatta con gli Yardbirds. Honey Aslam, la cantante, entrò nel 1972 ed è tuttora l'unica che è rimasta di quell'avventura, e con lei che tiene alto il nome dei Renaissance. Quell'album che ci andiamo ad ascoltare è della serie King Biscuit Flower Hour, è stato pubblicato in due parti, in due CD distinti, ma il concerto è lo stesso, quello che è avvenuto alla Royal Albert Hall di Londra il 14 ottobre del 1977, come nel caso di Neil Young, anche insieme alla Royal Philharmonic Orchestra. Ce l'andiamo ad ascoltare, il brano che abbiamo scelto, che ho scelto, scusate, per voi, si chiama Carpet of the Sun. This is a song entitled Carpet of the Sun. Take the time to find the Thank you. Would you like to do thank you. E non poteva mancare in una rassegna di album orchestrali Mr. Rick Wakeman con le sue sei mogli di Enrico VIII di Six Waves of Red Eight. Rick Wakeman, grandissimo tastierista, divenne già in gioventù un apprezzato e richiestissimo session man, poi abbandonò questa professione a tempo pieno per entrare a tempo pieno, scusate il gioco di parole, con gli Strokes, grandissima band. Ricordo sempre l'ottimo album live che si chiama Just a Collection of Antiques and Curios. Poi nel 1971 invece si unì agli Yes e da lì è stata la fama che l'ha colpito a livello mondiale. E quando poi uscì nel 73 The Six Waves of Red Eight, il successo fu ancora più enorme come solista. Il brano che ci siamo ascoltati arriva da una riproposizione integrale del suo album d'esordio, appunto Le mogli di Enrico VIII, a Hampton Court Palace, posto bellissimo, che è stato registrato il 2 maggio del 2009 insieme all'Orchestra Europa, si chiama proprio così, non Europe ma Europa, e The English Chamber Choir. Il brano era quello dedicato a Caterina di Aragona, Catherine of Aragon, Mr. Rick Wakeman. Ma non è che ci siano solo questi vecchioni, diciamo così, ad avere registrazioni live insieme all'orchestra, ce ne sono anche un po' più moderni, e infatti adesso ci andiamo ad ascoltare uno di questi. Si chiamano Portishead, arrivano da Bristol, non sono poi tanto modernissimi perché questa registrazione è del 1997, è stata effettuata a Roseland di New York City, e in effetti l'album si chiama Roseland New York City Live. Loro sono fra i leader di quella categoria, diciamo così, anche se le etichette sono sempre deleterie, che si chiama Trip Hop, e hanno fatto tre album in studio solo fino adesso, dal 1991 che è l'anno della loro formazione. Uno di questi appunto è questo là, anzi più questo live che ci andiamo ad ascoltare, con un brano che si chiama Glory Box. I'm so tired of playing with this bow and arrow. I'm gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. Oh, I've been a temptress too long. Just give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. Of mine, a thousand flowers could bloom. Move over and give us some room, yeah. Give me a reason to love you. Give me a reason to be. Portishead from Bristol, UK. Il brano, come vi ho detto, si chiama Glory Box, è contenuto in questo album Roseland New York City Live, che fra l'altro è stato pubblicato, ripubblicato lo scorso anno in vinile, che è l'unico album live della band fino a questo momento. Ci sarebbero tantissime altre cose, cito solamente Another Surf, cito Dream Theater, Andy Franco, ma appena me ne sarà data l'occasione ve li proporrò come appunto album registrati con un'orchestra classica. Fra l'altro, con i Portishead non hanno un'orchestra stabile nel loro album, ma un'orchestra assemblata per l'occasione. Volevo concludere con una band che rischia parecchio, perché è uno dei rischi secondo me più negli album con l'orchestra, ma anche nei dischi di studio, è quello di essere un po' melensi. E questi Divine Comedy, che arrivano dall'Irlanda del Nord e sono stati formati nel 1989 da Dean Hannon, dicevo, questi Divine Comedy rischiano parecchio di essere un po' troppo melensi. Sono sempre lì e vi faccio ascoltare questo pezzo, che è il loro pezzo più famoso. L'album si chiama Short Album About Love, è stato registrato insieme a una mess conosciuta, Brunel Ensemble, al Shepherd Bush Empire di Londra il 20 ottobre del 1996. Il brano che vi propongo, e lascio a voi il giudizio sulla melensità di questo pezzo, si chiama Everybody Knows Except You. Loro sono Divine Comedy. Everybody knows that I love you. Everybody knows that I need you. Everybody knows that I do. Except you. I told the stars above about the one I love. I told the morning sun. Yeah, I'm telling everyone. I told my mom and dad. They seem to understand. And I'll get through to you. It's the last thing that I do. Everybody knows that I love you. Everybody knows that I need you. Everybody knows that I do. Except nobody knows that I do, except you. Blue. Seconda parte di Città Fusico Live Club del 17 luglio 2024. Siamo agli sgoccioli di questa prima parte dell'anno. Fra un po' la radio si prenderà qualche giorno, un paio di settimane di riposo, ma intanto abbiamo iniziato la seconda parte di Città Fujiko Live Club con la novità che vi propongo quest'oggi: Joe Bonamassa e l'orchestra. L'album si chiama Live at the Hollywood Bowl with Orchestra, appunto, ed è un CD più DVD, quindi il cosiddetto combo. È stato registrato a Los Angeles il 9 agosto del 2023. Il brano che vi ho fatto ascoltare, che apre appunto la seconda parte di Città Fujiko Live Club, si chiama 24 Hour Blues. Seconda parte che vede sempre in scena Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, rubrica che conterrebbe tantissime ma tantissime cose in questi giorni, ma come sempre il tempo è tiranno, il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Ed iniziamo subito la grandissima. Credo e spero che Jimi Hendrix non abbia bisogno di nessuna presentazione, quindi dirò solamente che questo doppio long play che si chiama The Jimi Hendrix Concerts, sottotitolo, lo dico in italiano, una collezione delle esibizioni più eccitanti, uscì a suo tempo nell'agosto del 1982, quindi abbondantemente postumo, e contiene appunto registrazioni effettuate qua e là per il mondo, prevalentemente negli Stati Uniti e a Londra, e in tutta la parte della carriera di questo personaggio grandissimo, Jimi Hendrix, che purtroppo, come si suol dire, ci ha lasciato troppo presto. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al New York Pop Festival di New York City, Randall's Island per la precisione, che è una delle isolotti che sono nella baia di New York, e il tutto il 17 luglio del 1970. È uno dei suoi grandi classici, un brano, manco a dirlo, assolutamente splendido, che si chiama Red House. If you didn't bring any blues with you, we'll make sure we make some for you to take home with. There's a red house over yonder, baby. Lord, that's where my baby stays. Yes, there's a red house over yonder, baby. Anyway, that's where my city, baby. Wait a minute, something's wrong. Lord, I'm missing the key, won't unlock this door. Thank you. Per quel che mi riguarda, Jimi Hendrix, come la settimana enigmistica, ha avuto migliaia di tentativi di imitazione, ma non, nessuno è mai arrivato a questi livelli. Red House, il pezzo che ci siamo ascoltati, una cosa veramente bellissima, dal vivo al New York Pop Festival di New York City il 17 luglio del 1970, dall'album The Jimi Hendrix Concerts, la versione doppio vinile, ma la potete trovare tranquillamente anche in versione CD. Da un grande del rock blues a un grande della musica rhythm and blues e soul, lui si chiamava Marvin Gaye, veniva da New York City, da Washington, scusate, Washington DC, ma lui è diventato famoso a Detroit e ha fatto diventare famoso Detroit e la sua Motown Records, un sacco di singoli in classifica e tanto successo, fino al 1984, quando durante una lite fu ucciso con un colpo di pistola da suo padre, una cosa veramente incredibile. Live in Montreux 1980, dal vivo a Montreux appunto nel 1980, è un doppio CD che è stato pubblicato nel 2003, ma come dice il titolo è stato registrato nel 1980, esattamente il 17 luglio, e il brano che ho scelto per voi, manco a dirlo, è un super classico della produzione di Marvin Gaye, si chiama Let's Get It On. you know, let's get it on. Oh, baby, let's get it on. And you know, let's get it on. I love you. Oh, baby, let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Don't you want it? Let's get it on. Let's I feel you do. Let's get it on. I feel it deep inside. Let's get it on. I know you want me to. I wanna prove all my love to you. Let's get it on. Let's get it on, baby. Right now, baby. Let's get it on. Oh, come here, baby. Turn the music low, baby. Oh, turn the music low. Oh, baby. So we can get it on right now. Turn the music down, way down. I want you, baby, all my heart. Turn the lights down, baby. Let's get it on, Lord. Oh, I love you, baby. Let's get it on. But turn the lights off, baby. Grande Marvin Gaye con la sua Let's Get It On, registrata live al Festival di Montreux il 17 luglio del 1980. Thank you, Mr. James. Come on, baby. Viene da Cleveland Mark Cohn, che rappresenta gli anni 90 con il suo brano di punta, il brano che l'ha reso famoso in tutto il mondo, tratto da un singolo con quattro tracce, fra cui appunto questo live registrato a New York City il 17 luglio del 1991. Il pezzo si chiama Walking on Memphis, Mark Cohn. The thing that is sort of remarkable to me now about this tune is I just looked at a journal that I kept during the making of the record. I wrote little things every day at the end of a day. And on one afternoon I said, I'm not putting that song on the record. It's impossible to get. It's horrible. I hate it. The band doesn't play it well. Plus there was a hole in my mitt and the sun was in my eyes and I couldn't see the ball. No, but... Anyway, I was close to not putting this tune on the record for a couple of days, but I did, and it's number 10 on the charts. Now, yes, with a bullet, exactly. I think it may have lost its bullet. I hate to admit it, Pat, but it lost its bullet, I think. But anyway, it's a pleasure to sing this song that I hated a couple years ago because it proves to me that I'm stupid. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. Won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beer, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? And I feel pretty good right now. Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland. Then I watched him walk right through. Now security did not see him. They just hovered round his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king right down in the jungle room. When I was walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table. They've got gospel in the air, yes they do. be glad to see you, baby. When you haven't got a prayer. But boy, you've got a prayer in Memphis. Now Muriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all of my might. She said, "Tell me, are you a Christian, child?" And I said, "Ma'am, I am tonight, walking in Memphis. Walking with my feet 10 feet off a pier, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel when I'm walking in Memphis?" And I was walking with my feet 10 feet off a pier, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Blue suede shoes and boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues. I was in the middle of the pouring rain. Una delle migliori jam bands americane in giro per gli Stati Uniti dal 1986. Provengono da Athens, Georgia, la città di R.E.M., la città di B-52s e di tanti altri. Si chiamano Widespread Panic, sono veramente fantastici, tanto fantastici che detengono il record di concerti sold out consecutivi a Red Rocks 67 volte, scusate se è poco. Hanno, come tutte le jam band, una discografia speciale sul loro website, dove potete trovare anche questa Driving Songs Volume 1, che è il summa dei concerti che hanno fatto nell'estate del 2007, un brano per ogni concerto in pratica. Questo è stato registrato al Tower Theater di Upper Derby, un sobborgo di Philadelphia, il 17 luglio del 2007. Il brano si chiama Holding Over Soul, loro si chiamano invece Widespread Panic. A concludere Ricordi Today e Città Fujiko Live Club di oggi arriva invece un grande chitarrista che si chiama Phil Manzanera, ma prima vi ricordo che vi siete ascoltati un paio di ore di musica live di tutti i generi più o meno e di tutte le epoche dai 103.1 MHz di modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. Si chiama Città Fujiko Live Club la trasmissione, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, e vi lascio appunto con questo grande chitarrista che si chiama in realtà Philip Goffrey Target Adams, ma per artisticamente ha assunto il nome della madre, appunto Manzanera, che è di origine colombiana. Lui è, a causa del lavoro del padre, che era un diplomatico, ha girato in diversi paesi del Sud America, però poi è tornato una volta a Londra, si è unito ai Roxy Music per una carriera che gli ha dato tantissimo successo. Ha anche fatto parte di una band che si chiama 801 e per diverso tempo ha suonato anche nella band dell'amico David Gilmour. Ci andiamo ad ascoltare questo album che si chiama Live the Curious Arts Festival. È stato registrato al Pile Wheel Park di Lymington in Gran Bretagna il 17 luglio del 2015 ed è accreditato alla a Phil Manzanera and the Sound of Blue Band featuring Sonia Bernardo. È una cosa un po' lunga e quindi ci andiamo subito ad ascoltare la sua versione di questo brano dei Roxy Music, naturalmente, che si chiama Love is the Drug, Phil Manzanera, eccetera eccetera eccetera. Ciao a tutti da Nevio. Oh, can't you see? Love is the drug.